Innanzitutto desidero ringraziare per questo invito che mi consente di tornare a Bologna, città ricordo sempre, in cui ho insegnato quando ero più giovane, 7 anni, e di intervenire a questa iniziativa della Scuola dei diritti dei cittadini promossa appunto dall'Associazione Ardigò. E mi piace sempre ricordare che Ardigò è stato per me maestro non solo per quanto riguarda la sociologia, ma anche un maestro di vita. E mi sembra più che mai pertinente mettere in collegamento questi tre temi che avevamo un po' individuato: diritti, immigrazione, città metropolitana, in questa occasione, cioè i diritti e l'immigrazione in un contesto urbano. Ho avuto già modo, spero di non ripetermi, di esporre in precedenti incontri proprio organizzati sempre dall'associazione Killer Ardigò, di cui mi onoro di essere socio, proprio la città costituisce chiaramente un osservatorio privilegiato, importante, per studiare le dinamiche dei processi di integrazione, di tutti. È infatti nelle città che si gioca la partita dell'integrazione, soprattutto nelle città. E nell'ordinaria concretezza poi dell'accesso ai servizi da parte dei cittadini, italiani e stranieri, è qui che si misura quanto le istituzioni garantiscono il rispetto dei diritti, sia quanto le persone ottemperino però anche i loro doveri. Parliamo di diritti, ma ricordiamoci che i diritti senza doveri non stanno tanto in piedi. E nelle città è come se si potesse vedere, come posso dire, al microscopio la questione o il rischio di un certo sciovinismo del welfare, per tradurre l'espressione inglese ripresa anche da Kimlicka. E proprio con questa espressione si intende l'applicazione di restrizioni nelle norme o nelle prassi all'accesso ai servizi e alle risorse in ambito sanitario, in ambito educativo, abitativo, lavorativo. E come Kimlicka, che è un importante studioso canadese che ben conosce queste realtà, come costui sostiene, le società occidentali si trovano oggi, chi più chi meno, di fronte a un paradosso, devono affrontare un dilemma che viene definito il cosiddetto paradosso progressista, che consiste nella difficoltà di conciliare l'accoglienza, il riconoscimento, la promozione della diversità, però con la necessità di adottare robuste e anche chiaramente dispendiose politiche redistributive del welfare. Ed è appunto l'interazione quotidiana e materiale vissuta nelle città che questo problema teorico si ripropone e si manifesta in modo tangibile, concreto, con possibili conseguenze anche in termini di conflittualità e di convivenza, che poi chiama in causa tutto il discorso della coesione sociale, che come sapete sta ritornando anche di grande attualità. E allora diventa cruciale osservare queste dinamiche appunto al microscopio, nelle città appunto, proprio per cercare di mettere a fuoco i nessi e le tensioni appunto fra questi tre temi evocati dal titolo, e cioè l'accesso ai diritti per come viene garantito dalle politiche e dalle prassi in presenza di una popolazione sempre più diversificata, come certo che anche Bologna è così, soprattutto nelle aree urbane in virtù del fenomeno migratorio. E allora ecco che sono proprio gli enti e i decisori locali ad essere ogni giorno chiamati a affrontare le pressanti sfide dell'accoglienza sul territorio. Sono loro a doversi misurare nel quotidiano, nella concretezza dei problemi che si pongono ogni giorno, con le esigenze e le opinioni di tutti i cittadini, problema delicato, sapete, quello degli atteggiamenti, delle posizioni dei cittadini, e quindi a dover fornire risposte efficaci ma anche realistiche. E sono spesso i sindaci a farsi carico di problemi che a livello centrale o diciamo di politiche nazionali risultano trascurati nella migliore delle ipotesi o sono volutamente non trattati. Ecco allora che c'è questa funzione di supplenza che gli enti locali devono assumersi. Basti pensare alla gestione dei migranti irregolari, e lo dirò se ho tempo dopo, ma le politiche locali tendono a focalizzarsi su problemi molto, molto concreti, in qualche modo cercando di riparare a quelle politiche nazionali che non funzionano o si rivelano inadatte, addirittura dannose, inefficienti, soprattutto quando il carattere restrittivo di queste politiche nazionali si scontra con altri imperativi politici che invece a livello locale rappresentano delle priorità importanti, come appunto la coesione sociale di una città, l'ordine pubblico. In questo senso quindi le città si configurano spesso come, oso dire, formidabili laboratori di pragmatica sperimentazione. I nodi arrivano lì, con tutti gli aspetti, sia positivi ma anche problematici, che ciò comporta. Diventa allora utile e direi anche necessario focalizzarsi sulla modalità in cui le città contemporanee rispondono a queste sfide che sono poste proprio dalla gestione della diversità da un lato. Come gestire la sfida? Come gestire la diversità? Soprattutto in contesti come quelli nostri, dove ciò è relativamente recente, da una parte, dall'altro dall'imperativo del rispetto dei diritti e della garanzia di pari opportunità. Ecco, faccio qualche esempio proprio a livello locale. Non parlo di Bologna, che la conoscete voi, non oso parlare perché vorrei dire cose che non so. Faccio qualche esempio che tratto da delle ricerche che facciamo anche noi, che mi consentono così di offrire forse qualche spunto di riflessione, mi auguro almeno che sia così. Allora, uno dei primi interrogativi che credo si devono porre i decisori politici e istituzionali, ma che poi in modo diretto e indiretto riguardano tutti i cittadini, in materia di accesso ai diritti e ai servizi, riguarda l'adozione o meno di misure ad hoc. Spiego subito. Con riferimento ai processi di integrazione di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, parliamo però di loro, i policy makers a livello centrale, ma soprattutto e in modo più decisivo a livello locale, si trovano infatti di fronte alle scelte di due possibili alternative. Questo è un primo nodo, credo, importante. La prima alternativa riguarda l'attivazione di cosiddette politiche di mainstreaming, cioè termine che potremmo tradurre per condividerlo come politiche indirette o indifferenziate o generalizzate, per cui l'intera popolazione, senza distinzione tra i cittadini, quindi cittadini, migranti, eccetera, per tutti, risulta beneficiaria, tutta la popolazione risulta quindi beneficiaria delle politiche e delle misure adottate. Per fare un esempio concreto, pensiamo alla gestione degli alloggi popolari in molti contesti locali o alle politiche attive del lavoro, ma qui abbiamo un esperto, quindi noi non entro, penso però alla garanzia giovani, per esempio, misura adottata a livello europeo, per esempio finanziata dalla Commissione europea, proprio volta a inserire un inserimento lavorativo dei giovani, è aperta anche ai giovani stranieri. Vedevo oggi una ricerca, mi sembra che è stata fatta dalle ACLI, molto interessante, proprio l'ho visto oggi sul giornale, quindi ho letto solo degli stralci, proprio sulla differenza dell'inserimento lavorativo degli italiani e dei giovani italiani e giovani immigrati con un delta molto forte fra gli uni e gli altri, ecco, come indicatore. Quindi la prima alternativa è dire una politica che vada per tutti, indipendentemente dallo status di cittadino, di immigrato, eccetera. E quindi è quella del mainstreaming. La seconda alternativa invece riguarda la messa in opera di opere, di iniziative dirette, rivolte cioè specificamente a un determinato settore della popolazione. Nel caso di politiche dirette, attivate quindi esclusivamente per gli stranieri, per esempio, potremmo citare l'istruzione, per esempio, l'istituzione di corsi di lingue o di servizi di mediazione linguistico-culturale, oppure l'attivazione di iniziative ad hoc per favorire l'accesso ai servizi sanitari, nonché alla sensibilizzazione dei consultori a temi dell'intercultura. Sono iniziative che si fanno apposta per gli immigrati. Questa è la prima grande distinzione, che è una distinzione che comporta appunto delle conseguenze poi a livello operativo. Facciamo interventi mainstreaming per tutti, generalizzati, o ci impegniamo a fare delle iniziative specifiche per target particolari di popolazione. E questa è la prima cosa. Ora è chiaro che la scelta tra queste due opzioni è, come tutti credo sappiamo, oggetto di dibattito, perché è una questione che non è semplice, perché da un lato c'è chi sostiene la necessità di adottare approccio un approccio mainstreaming e quindi richiama l'attenzione sulla necessità di rispondere ai bisogni a prescindere da chi ne è portatore, mentre nell'altro caso, quelle dirette, coloro i quali prediligono appunto misure ad hoc indirizzate a un target particolare di popolazione, per esempio popolazione migrata, mettono in risalto il rischio di sviluppare un effetto cosiddetto effetto ombra, che oscurerebbe, si chiama così, perché tenderebbe a oscurare i bisogni specifici di quella parte di popolazione, i quali non richiederebbero, quindi non rischierebbero di non trovare risposta. Uno studio che stiamo conducendo, per esempio, su alcune città europee, faccio solo qualche esempio, poi fermatemi se sono noioso. La città di Amsterdam, un interessante laboratorio nell'affrontare questa questione, ecco, proprio uno studio recente su questo e su questa ricerca che stiamo facendo, emerge che l'amministrazione della città di Amsterdam ha scelto di non utilizzare per esempio più il termine integrazione nella definizione delle proprie politiche sociali, perché i funzionari pubblici o coloro che ricoprono delle cariche elettive in quella città ci hanno esplicitamente detto di rifiutare il termine da qualche anno, poi entro nel merito. Dal loro punto di vista, il concetto di integrazione rischia di rinforzare la distanza sociale fra autoctoni e immigrati. Ne abbiamo discusso. Il termine, a loro giudizio, tende quindi a escludere e a perpetuare quell'immagine di esplicita e implicita contrapposizione fra noi e loro. Al contrario, per i policy makers locali, in una città dove ormai le minoranze etniche, sommate tra di loro, stanno diventando la maggioranza, come ad Amsterdam, ma non solo là, ho visto Rotterdam lo stesso, anzi ancora di più. Sapete che a Rotterdam, per esempio, c'è un sindaco non autoctono, ecco, no? Ebbene, dicevo che dal punto di vista delle politiche adottate, questo si è tradotto quindi nella cancellazione di fondi specifici dedicati all'ambito integrazione e diversità. Limite integrazione, quindi non ci sono più fondi per l'integrazione. In altre parole, tutti i cittadini di Amsterdam vengono considerati tali senza distinzione e beneficiano delle stesse misure in ogni ambito e nessuna politica specifica o ad hoc è stata avviata, ad eccezione per quanto riguarda i richiedenti asilo e i rifugiati. Ora, questa scelta avrebbe anche lo scopo, a giudizio di questa amministrazione comunale di Amsterdam, di stimolare, sostengono loro, l'indipendenza e l'autonomia dei cittadini con un background migratorio, conducendoli più rapidamente a diventare cittadini attivi e partecipi a tutti gli effetti, cioè capaci di utilizzare i servizi in modo regolare, generalizzato il più possibile. Insomma, in altre parole, come ha dichiarato per esempio uno di questi funzionari che abbiamo intervistato nella ricerca, la quantità di servizi che ciascuno riceve varia anche a secondo di quanto ciascuno è in grado di attivarsi per inoltrare richieste agli organi competenti relativamente ai propri bisogni, senza aspettare di ricevere passivamente delle prestazioni. Attenzione, qui c'è sempre questo sfondo, questa questione di un assistenzialismo, magari non voluto, ma che di fatto poi nella concretezza del tipo di azioni svolte, al di là di quella che può essere la buona volontà di chi le avvia, però può dar luogo appunto a una modalità di intervento che è assistenzialistica e quindi sostanzialmente passiva. Ecco, questi approcci per esempio dovrebbero servire appunto a responsabilizzare gli utenti, siano essi stranieri, autoctoni, quello che è, all'uso e all'accesso dei servizi. Gli esiti e l'eventuale successo di questo nuovo modo di intendere il welfare cittadino sono ancora evidentemente da verificarsi e sarebbe molto utile monitorare queste cose, perché sono innovazioni che pongono poi dei problemi, perché per un verso sono indubbiamente interessanti, positivi e innovative, però bisogna vedere poi operativamente la ricaduta di questi interventi, come va a configurarsi. Si tratta indubbiamente di un intervento innovativo, ce ne sono tanti anche in Italia, faccio un esempio fuori per non entrare in questioni nostre specifiche, e da monitorarle in modo concreto. Io credo che, questo come mia opinione, però evidentemente lo pongo in discussione, che questa distinzione così netta, tranchant, fra politiche di mainstreaming e dirette, viste come alternativa, quindi assumendo una logica dell'out-out, la vedo un po' troppo eccessivamente illuministica, astratta. Io credo invece che, sono sempre più convinto che, almeno in termini generali, al di là poi della possibilità concreta in certa realtà di realizzare delle iniziative anche di tipo diritto oppure solo diritto di tipo di mainstreaming, ecco, credo che sia oggi come oggi, almeno in linea generale, assumere un approccio che io chiamo dell'entente, non dell'out-out, cioè non far subito una scelta drastica, facciamo solo iniziative di mainstream oppure dirette, al di là però di quella che può essere la possibilità reale che in un concreto contesto si possa fare una scelta di questo genere. Cioè, il mio giudizio, occorre sempre tendere a avviare delle iniziative che siano tarate a quel contesto. Ecco, mentre io ho un po' paura di generalizzare, dire sposiamo il mainstreaming perché va di moda o sposiamo il dirette perché è più utile. Credo che dobbiamo tendenzialmente, prudentemente invece muoverci, come dire, in generale, con un'adozione di questa logica che chiamo dell'entente e quella dell'out-out, eventualmente utilizzarla, ricorrere ad essa solo in casi dove ci sono dei presupposti concreti per fare una scelta, per cui le scelte vanno sempre, a mio avviso, storicizzate e contestualizzate, ma questo in generale. Per quanto riguarda l'Italia, un esempio recente che anche positivo, in questo caso incoraggiante, di mainstreaming. L'abbiamo notato nella città di Palermo, quindi vado addirittura in un'isola, fa piacere così citarlo perché è stato interessante. Questo progetto che si chiama Palermo Città Educativa è nato nel 2015, che integra in modo anche interessante, a mio giudizio, le diverse politiche cittadine, non solo educative, ma anche sociali, urbanistiche, culturali, ambientali e diversi attori, proprio con lo scopo comune di operare a beneficio dei minori sulla prevenzione, sulla partecipazione, sulla protezione individuale e sociale all'interno di una comunità. Una comunità proprio intesa come sistema complesso di relazioni fra cittadini, cittadine, istituzioni, enti che sappiano riconoscersi reciprocamente, ascoltarsi e costruire la capacità di lavorare insieme. Ecco, ho portato questo esempio perché se noi ci vediamo, guardiamo intorno, vediamo che ci sono tante esperienze positive, ecco, quindi sto adesso a enumerarle, magari poco conosciute, che possono anche servire come esempi da considerare per attività che si possono fare anche in altri territori. Tornando a questa iniziativa palermitana, ecco, questa città educativa, tutti i cittadini sono in realtà beneficiari, i bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze di età comprese fra i 16 e i 18 anni sono destinatari diretti, mentre sono destinatari indiretti genitori, educatori, psicologi, assistenti sociali, docenti, amministratori, operatori della formazione, della giustizia minorile, della cultura, economici, politici, eccetera. Ecco, quindi come vedete c'è un convergere di più attori che in modo diretto, in certi casi o indiretto, sono inseriti in questo progetto. Mainstreaming potrebbe anche indurre a affrontare i problemi della città in primo luogo come questioni di svantaggio socio-economico, prima ancora che di convivenza interetnica. In questo senso, dei suggerimenti vengono anche da diversi studiosi che però hanno sempre piedi per terra, nel senso che guardano delle realtà concrete, che sostengono di concentrare maggiori risorse nelle aree, negli ambiti che risultano più deprivati o marginalizzati, discorso che tutti sappiamo delle periferie, non è che scoprono qualcosa di nuovo, però per ridurre la competizione fra autoctoni e stranieri. In che cosa? Nell'accesso dei servizi. Anche a Bologna credo che qualcosa del genere possa succedere, però buono non so, insomma, da ricercatore empirico non avendo i dati non mi pronuncio, semmai sarete voi a esporre iniziative da questo punto di vista o rifletterci. Ecco, per ridurre questa competizione che poi, come sappiamo, in molte aree urbane è all'origine di conflittualità, di sentimenti fortemente ostili, di atteggiamenti negativi, eccetera. Ecco, anche qui un caso classico è quello che emerge da tutte le ricerche, quello degli alloggi popolari. In altre parole, se venissero aumentate le risorse in questo ambito di policy, appunto dedicate a specifiche parti della città, quindi sia stimolando l'offerta con la costruzione per esempio di nuovi alloggi, sia stimolando la domanda con la predisposizione di sussidi per pagare gli affitti, ci possono essere modalità molto diverse, si garantirebbe, almeno questo sembra che sia abbastanza scontato, un migliore equilibrio e una più effettiva garanzia di pari opportunità sia agli autoctoni meno ambienti, sia ai cittadini stranieri, anch'essi ovviamente meno ambienti. In ogni caso, quanto descritto, concernato prima a proposito di Amsterdam, risulta di più facile attuazione in una città, in una situazione, appunto, l'Olanda, che ha conosciuto un'immigrazione molto più antica rispetto a quella dell'Italia, ecco perché dico, teniamo sempre presente l'esigenza di storicizzare e contestualizzare i fenomeni, e dove la diversificazione delle popolazioni è ormai tale da giustificare, forse, prendiamolo come ipotesi, proprio l'adozione di politiche generalizzate. Quindi probabilmente è in realtà dove i processi migratori hanno una storia più lunga, dove queste cose si sono chiarite, ecco il problema di storicizzare, bene, in quei contesti il problema di contestualizzare, sarebbe forse possibile anche fare delle scelte più coraggiose in termini di mainstreaming. Però anche in questo caso, ed è venuto fuori anche da queste indagini, quindi è un dato empirico questo, il rischio di creare effetti ombra che nascono le esigenze urgenti di gruppi, che nascondono, scusate, le esigenze urgenti di gruppi specifici e rimane molto concreto, questo rischio rimane anche in quei contesti per dichiarazione degli stessi operatori di quelle città. Si pensi per esempio, come cose concrete, ai familiari neoricongiunti che approdati appunto nel nuovo paese dovrebbero essere messi nelle condizioni di conoscere la lingua, di funzionare e il suo funzionamento di questi paesi in tempi relativamente brevi con i ricongiungimenti familiari. Pensiamo al caso, non so, delle mogli ricongiunte che dovrebbero essere in qualche misura beneficiari di politiche che facilitino il loro inserimento e quello dei loro figli, aiutandoli quindi a orientarsi nel sistema educativo, sanitario, lavorativo, più in generale, diciamo, in questo nuovo contesto in cui sono destinati a vivere. Ebbene, tornando sempre ai due approcci, sia quello delle politiche dirette, quindi sia quello delle politiche indirette, presentano entrambi, se poi le analizziamo bene, sia aspetti positivi sia aspetti negativi. Ecco perché parlo di un dilemma. E come emerge dallo studio che ho citato, ma non mi dilungo su altri esempi che concorrono a sostenere questa linea, l'opzione da preferirsi credo che sia ancora, almeno in termini generali, è quella di un approccio misto. È più pragmatico, più realistico e forse più efficace ed efficiente. Se infatti quello delle politiche indirette deve rappresentare un obiettivo da perseguire nel lungo periodo, sarebbe quello auspicabile indubbiamente, sembra più efficace prevedere delle tappe intermedie con alcune categorie di esse, si pensi ai rifugiati, ai richiedenti asilo, accanto a soluzioni invece più ampie in risposta ai bisogni della popolazione intesa nel suo complesso. E ciò appare tanto più, credo, realistico se si tiene conto del fatto che i bisogni delle popolazioni si fanno sempre più variegati in virtù dell'aumento della diversità. Sappiamo ormai che non ci accontentiamo neanche più di parlare di diversità, ma aperto, perché altri, giustamente a mio parere, dicono: guardate che ormai il nostro scenario, la nostra realtà va oltre la diversità, tant'è che ha coniato il termine di iperdiversità, cioè noi viviamo in un mondo, sempre è stato diverso il mondo, oggi come oggi abbiamo invece una situazione dove si enfatizza la diversità, tant'è che si parla, e credo anche giustamente, di super diversità. E quindi i profili degli stessi migrati non si sono mai mostrati tanto diversi quanto a provenienza geografica. Pensate che da noi abbiamo 190 gruppi etnici nazionali, quindi pensate culture diverse, modelli di comportamenti diversi, eccetera, eccetera. Ebbene, questo esempio credo che sia abbastanza evidente e significativo. E allora ecco che tutto questo crea configurazioni di gruppi, di bisogni inediti, alle quali occorre sapersi rapportare in termini evidentemente di politiche e di misure da mettere in atto. E questa eterogeneità credo che sia particolarmente rilevante in Italia, proprio per il dato che ho detto prima, tenendo conto che è vero che c'è una grande articolazione di nazionalità, ma c'è anche poi un gruppo molto forte che è formato poi da tre cittadinanze, rumena, albanese e marocchina, perché rappresentano il 40% di tutta la popolazione immigrata. Poi c'è tutta un'altra serie di persone, però ecco, teniamo conto che il grosso, il 40%, è costituito da questo. Vediamo. Fermami tu, finora vado avanti, sì. Ditemelo voi, se volete mi fermo, perché poi giustamente bisogna lasciare spazio anche al lavoro, perché è importante forse ancora di più. Ad ogni modo, diciamo, l'opzione a favore di politiche dirette oppure indirette non può che riguardare i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti. Ben diversa è la situazione poi degli stranieri regolari, di quelli a cui è stata rifiutata la domanda di asilo, così però anche per quanto riguarda invece i richiedenti asilo e in modo ancora più particolare di quelle categorie di migranti particolarmente vulnerabili. Pensate, come diciamo, sappiamo, pensiamo ai minori non accompagnati, ai vittime di tratta, anziani, malati. Bene, tutti costoro costituiscono dei gruppi visibili, fisicamente e materialmente presenti sul territorio cittadino, con cui l'amministrazione locale deve necessariamente fare i conti. E se le politiche nazionali spesse non forniscono risposte utili o realizzabili per queste categorie di persone che ho appena citato, allora ecco che sono le città a dover concretamente affrontare le questioni. E le soluzioni sperimentate sono solitamente molto pragmatiche da parte delle città e hanno fondamentalmente l'obiettivo di ridurre le possibilità di conflitto e di garantire comunque una minima soglia di rispetto dei diritti individuali basilari. In alcuni casi, nell'adottare queste pratiche, le città si trovano anche in aperta polemica con le politiche e con i discorsi generati a livello nazionale e centrale. C'è proprio una distanza, con implicazioni molto rilevanti dal punto di vista della governance dell'immigrazione, per esempio. Anche qui ci sono molti esempi concreti, l'accenno solo perché vedo che il tempo passa. Come noto, tenendo un settore molto caro al nostro presidente, l'ambito sanitario, no, è uno dei problemi particolarmente cruciali, l'accesso alle cure per i migranti, per esempio, irregolari. Sapete? Qui abbiamo un centro Biavati che è proprio specializzato. Sì, siamo qui in casa. Ma io so che a Bologna fate tante cose, però proprio per quello lascio dire a voi. Ecco, io porto questo esempio, poi prendo quello che stanno facendo, per esempio, a Monaco di Baviera. Ha svolto questo, magari siete molto più avanti voi, non lo so, mi riferisco a questo, sempre così per avere uno sguardo un po' internazionale delle cose, poi ogni realtà senz'altro forse si sta impegnando, cerca di farlo. Bene, qui è istituito già da 11 anni un servizio cosiddetto di contatto medico per persone prive di assicurazione sanitaria, come sono appunto i migranti irregolari. Questo è stato fatto da Düsseldorf e Francoforte, anche qui con queste forme di consulenza anonima per facilitare l'uso dei servizi sanitari da parte degli irregolari. Rotterdam, per esempio, vaccina gratuitamente i figli di migranti regolari se vengono segnalati da ostetriche, medici, eccetera. Ecco, nel 2012 cosa è successo? La c'è stata una decisione del governo centrale spagnolo di escludere completamente i migranti irregolari dall'accesso alle cure ed è stata contestata però dalla comunità autonoma della Catalogna e dei Paesi Baschi. E diverse città in queste due regioni hanno per esempio adottato varie misure per garantire l'accesso alle strutture sanitarie per i migranti regolari nonostante il veto da parte del governo centrale. È un esempio che è abbastanza significativo. C'è tutto il problema anche degli alloggi che è importante, ma magari se volete ci torniamo dopo. Qui in Olanda con delle cose credo molto interessanti, in ambito educativo le città si sono rese spesso protagoniste di misure contrarie alla restrittività delle politiche nazionali, soprattutto con riferimento alla possibilità di frequentare la scuola dei figli dei migranti irregolari. Per esempio, per venire incontro alle famiglie di migranti irregolari che non hanno i mezzi finanziari per pagare la spesa per l'acquisto di libri per il trasporto, molte autorità locali del Regno Unito forniscono dei fondi alle famiglie attraverso dei regolamenti che hanno stabilito che riguardano i diritti dei bambini e il welfare locale, quindi prescindendo anche lì da quella che è la politica nazionale, anzi andando contro la politica. E quindi se si considera il sistema scolastico in generale e quindi non solo il riferimento a categorie vulnerabili come appunto sui figli degli irregolari, si riscontra, almeno dalle indagini dati raccolti, una tendenza delle città a sviluppare misure ad hoc per contrastare la dispersione scolastica attraverso il finanziamento di attività extracurricolari per supportare i bambini e i ragazzi a rischio di abbandono scolastico. Questo viene, sappiamo, in molte realtà anche italiane, credo sia molto importante perché sappiamo quanto sia determinante il ruolo delle scuole proprio per aiutare l'inserimento attivo delle persone. Altre iniziative municipali riguardano la segregazione scolastica, appunto a fine di evitare la concentrazione di alunni migranti in taluni istituti. Per esempio, un'esperienza che abbiamo appena visto, la città di Vic in Spagna ha ridistribuito i figli degli immigrati in diverse scuole, sia pubbliche sia private. Questa è una misura poi simile a quella che è stata adottata in larga parte del Regno Unito. Non, devo dire, essendo io di Milano, però lo dico, mancano case che potremmo definire però anche negativi, di città che hanno adottato misure che limitavano fortemente l'accesso ai diritti in sintonia con le politiche nazionali e in controtendenza con gli esempi che ho cercato di fare ora. Ad esempio nel 2005 la città di Milano pubblicò una circolare con la quale vedevano esclusi i figli dei irregolari dagli asili pubblici. Due anni dopo il Tribunale di Milano ha sancito il carattere discriminatorio di questa ordinanza e costrinse le città italiane a destinare dei fondi per garantire l'accesso agli asili pubblici anche ai figli dei migranti irregolari. In Spagna alcune municipalità rifiutano di registrare i migranti irregolari escludendoli dall'accesso ai servizi di base. In Francia questa stessa decisione è assunta per i membri della comunità Rom e Sim. Al contempo esempi in aperta polemica col livello centrale non mancano anche oltreoceano, lo sappiamo tutto, lo vediamo dai giornali, no? In particolare attualmente in atto uno scontro molto forte. Quindi non è solo in Europa che succedono queste cose, uno scontro molto forte, dicevo, tra l'amministrazione Trump e le cosiddette sanctuary cities, ovvero le città americane che si sono impegnate invece ad essere un porto sicuro per almeno certa quota degli 11 milioni di migranti irregolari che vivono tuttora negli Stati Uniti. Appunto, in questo caso è proprio secondo una logica che privilegia la promozione di politiche rivolte ai bisogni della comunità e al suo benessere nel suo insieme, piuttosto che allo status dei singoli individui. Ricordate che Trump aveva firmato un ordine esecutivo volto a tagliare i fondi federali a queste città. Se fate così, taglio i fondi. Qualora non avessero collaborato nella implementazione di misure di rimpatrio forzato. Però la Corte di California ha cancellato questo ordine dichiarando la misura incostituzionale. Questo per dire tutto il mondo è paese, insomma, i problemi poi ce li ritroviamo, ecco, non solo di qua ma anche al di là dell'oceano, eccetera. Ora, questi richiami che ho fatto mettono in evidenza come di fatto poi questo approccio pragmatico reso necessario dalla realtà concreta con cui le città si devono confrontare, ecco, che devono confrontarsi giorno per giorno, insomma, misurarsi giorno per giorno con la presenza di persone che, benché irregolari, possono poi anche contribuire all'economia della città e in riflesso del paese, hanno comunque avviato un percorso di integrazione, hanno figli che frequentano la scuola, oppure con persone che si trovano in situazione di estrema vulnerabilità e i cui diritti devono essere a maggior ragione garantiti. E con riferimento specifico, per esempio, ai richiedenti asilo e ai rifugiati, già più volte richiamato, riporto così alcune riflessioni così che ho maturato in termini di raccomandazione di policy, sia come organizzare l'accoglienza di queste persone. E come direi dimostrato poi dall'esperienza, l'accoglienza, l'inserimento in territori territoriali favoriscono la buona integrazione. La buona integrazione se e nella misura in cui i richiedenti asilo e i detentori di protezione internazionale costituiscono una percentuale relativamente piccola rispetto al resto della popolazione di una determinata realtà. E questa modalità riduce anche il rischio della conflittualità e risponde al principio della sostenibilità. Ecco, quindi questo è molto importante. Teniamo conto che oggi questo principio di distribuire in modo molto, molto ampio queste persone è stato accolto sugli 8.000 comuni da 1.500, se va bene. Quindi in realtà, se tutti i comuni d'Italia accettassero, no, di accogliere qualcuna di queste persone, andremo a ridurre la conflittualità e i problemi, proprio perché questa diffusione comporta la possibilità di non mettere grossi numeri, no? Invece allora ci sono dei comuni che per sensibilità, disponibilità, eccetera, ne prendono tanti e altri non ne prendono. Quindi questo è un elemento che credo bisognerebbe tenere presente. Occorre invece quindi selezionare poi con cura gli enti che gestiscono questi centri d'accoglienza, verificando che abbiano le competenze adeguate, a volte sono un po' improvvisati, a questo particolare tipo di utenza, gestendo quindi i trasferimenti delle persone, dei luoghi di approdo alle singole località italiane, in modo che essi possano anche partecipare più concretamente alla vita delle città, proprio per ridurre il rischio di incomprensioni, scontri, conflitti, fenomeni di intolleranza. Tutti ricordiamo il caso, per esempio, di Goro, no? Nell'autunno del 2016, dove gli abitanti si opposero all'accoglienza di un piccolo gruppo, se ricordo bene, poche persone, però, che sono state, hanno fatto addirittura le barricate, ricordate, eccetera, su questo. Allora, 2 minuti. Proprio. fatto qualche esempio di città che non, dove noi non viviamo. Uno l'ho fatto dove vivo io, quindi posso farlo, quello di Milano. Ma sul resto ho fatto degli esempi e sono certo che voi mi direte: ma queste cose le facciamo già noi a Bologna. Benissimo, ecco. Allora vediamo che o abbiamo noi avviato delle iniziative che anche altri fanno, e questo è un conforto, ci si può confrontare, si può vedere, credo che sia molto utile anche avere la possibilità per una realtà come quella di Bologna di confrontarsi, e probabilmente anche già lo fate, con altre realtà, perché è molto importante scambiarci i problemi, cercare di capire come risolverli, perché a volte facciamo tanta fatica a scoprire l'ombrello quando soggetto A o B o C l'ha già scoperto, ma noi possiamo invece dare un contributo, voi in questo caso dare un contributo per la soluzione di un problema che altri non sono in grado. Quindi un po' di comunicazione maggiore e di sereno confronto, non essere chiusi nel proprio ambito, perché abbiamo tutti da imparare e tutti possiamo forse anche dare qualche contributo agli altri. Questo credo che sia un approccio molto utile. Ma per concludere, ecco, questa mia riflessione, vorrei dire questo, che è una cosa su cui sto riflettendo molto, che devo dire anche un po' mi preoccupa, e vorrei infatti, diciamo così, aggiungere la parola, delle parole su quelli che sono i doveri individuali, che noi forse non prendiamo sempre abbastanza in considerazione. Sembra che a volte noi enfatizziamo molto i diritti, giustamente, perché voi avete parlato di diritti, altri che enfatizzano solo i doveri. Ecco, io credo che anche qui l'intente vada bene. Quando parliamo di diritti, dobbiamo ricordarci che a fronte dei diritti ci sono dei doveri, quando parliamo dei doveri ci devono essere dei diritti. Quindi, conti, lo Stato di diritto comporta questo. Allora, cominciando dai diritti, è fondamentale ricordare, almeno per me, poi propongo a voi come riflessione, ricordare come i diritti abbiano anche loro una loro storia. Quando dico l'esigenza di storicizzare, contestualizzare, poi vediamolo in concreto queste cose, no? Ebbene, cominciando, dicevo, dei diritti, è fondamentale ricordare che essi si sono formati, affermati ed estesi, non entro nella storia che è ben nota, come con quella che è stata definita la prima rivoluzione individualista, che ha avuto luogo, diciamo, con l'avvento della modernità. E con questa prima rivoluzione individualista si è creato, più o meno tacitamente, diciamo così, un compromesso che poi è diventato sempre più precario tra crescenti istanze personali da un lato ed esigenze collettive dall'altro. Cioè, il problema delicato è come conciliare quelle che sono le esigenze del signor Rossi, Brambilla, quello che volete, però l'altra esigenza è di tenere insieme un corpo sociale, un gruppo, una società chiamata. Questo chiaramente è il problema, è il vero problema poi dell'integrazione. Noi parliamo di integrazione immigrata, ma integrazione riguarda di noi. Il concetto di integrazione, perché io non condivido quello che è stato detto con te, perché io ritengo che l'integrazione è un qualcosa che riguarda tutti. Non è un problema degli immigrati, il problema di integrazione è un problema di tutti, con tutto quello che poi ne consegue. Ora, si è arrivato, diciamo, a questo compromesso con questa prima rivoluzione individualista, per cui si è detto, va bene, i singoli possono fare tante cose, però dobbiamo garantire un minimo di regole comuni e di assicurare che queste regole vengano adottate da tutti. Però cosa è successo? La storia va avanti, cammina. Con il passaggio a quella che ormai viene invece convenzionalmente definita, poi possiamo discutere sui termini, insomma, per intenderci adesso, postmodernità, cioè sostanzialmente a partire da una parte della fine del secolo scorso, si è avviata, ecco, su questo volevo portare l'attenzione, una seconda rivoluzione individualista, non la prima, diciamo moderata, che ha cercato di trovare un equilibrio fra i diritti individuali e i diritti collettivi, diciamo così. E che cosa è successo con questo passaggio? Cosa sta succedendo? Perché siamo in corso. All'insegna di questa volta di un individualismo che viene chiamato da alcuni autori un individualismo totale, che si affranca o tende ad affrancarsi del tutto dalla dipendenza nei confronti di regole morali e di legami comunitari. Cioè, mentre con la prima rivoluzione individualista si è trovato una sorta di compromesso fra ciò che vuole il singolo e dall'altro quello che occorre perché una società stia insieme, con la seconda rivoluzione individualista è saltato questo compromesso, sta saltando, o si rende sempre più ridotto, perché la primazia dell'individuo nei confronti della società tende a diventare assoluto. È il trionfo di quello che io invece chiamo l'iperindividualismo. Insomma, per il singolo, singola persona, liberato da questi vincoli posti dalle regole morali, dai legami comunitari, la dimensione del sociale, dell'esistenza, diventa sempre meno rilevante. Lo vediamo nei comportamenti della gente. La vita sociale si privatizza, diminuisce l'interesse per gli altri, se non in termini strumentali, mentre cresce l'indifferenza e l'apatia. Ecco allora che l'enfasi si sposta sempre più sui diritti individuali. Perché? Io non ci rimediamo. Perché oggi c'è un'enfasi così forte sui diritti individuali? Chi parla di diritti comunitari, perché comunità? Per questa rivoluzione in atto, transizione in atto. Ora, è proprio su questo punto, credo, che invece sia necessaria una riflessione. Anche per i temi che ho cercato così brevemente di trattare. Non basta infatti che siano i decisori politici e gli amministratori a farsi carico, usiamo questo termine, del bene comune. Certo, loro hanno una responsabilità istituzionale, ma occorre, proprio perché se vogliamo veramente interpretare, capire e attuare il bene comune, va costruito giorno per giorno, ma con l'apporto di tutti, senza con questo ridurre la responsabilità dei decisori politici, ma la composto di tutti, ma in primis dei cittadini in quanto tali, che poi avevano la giacchetta di autoctoni, di immigrati, importante, di tutti. E per far questo è necessario che ciascuno senta, avverta la responsabilità di partecipare, diciamo, a questo progetto, a questa avventura. Esercitare quindi il proprio diritto e il proprio dovere di partecipare. Partecipare è un diritto, ma anche un dovere, come intendiamo in questo termine. E in questa prospettiva, allora, il ruolo che la municipalità è chiamata a esercitare, quello, almeno a mio parere, come ipotesi, insomma, un auspicio, posso anche dire, come la municipalità come un'arena di discussione, stimolando sia il contatto fra le diverse anime della città, sia la via di una progettualità condivisa, informando e sensibilizzando i cittadini adeguatamente, fornendo piattaforme per la partecipazione di costoro alle decisioni importanti che le riguardano. credo che ecco, questo impegno possa generare un positivo circolo virtuoso di rinnovato senso di comunità. Questo non vuol dire mettere in discussione i diritti individuali, ma fare in modo che questi possano convivere positivamente, costruttivamente con quelle che sono invece le esigenze a livello collettivo. Non possiamo, cioè dobbiamo trovare un equilibrio, se volete, nuovo fra diritti individuali e diritti collettivi, fra il singolo, la società, ma aggiungo e anche la comunità, che a mio avviso stanno rischiando di soccombere sotto i colpi delle contemporanee tendenze iperindividualiste. E io penso che io, per amici della famiglia di Ardigò, che su questo forse anche Ardigò sarebbe d'accordo. Grazie. Allora, intanto ringraziamo il professor Cesare per un contributo veramente importante che ci ha dato con questa lezione, dandoci una buona rana per queste problematiche di diritti, direi non solo completa, ma anche con un approccio originale dal punto di vista teorico, di tutta una fase conclusiva. Io direi che sentiamo delle vostre osservazioni, ci sono delle domande. Prego, Francesca. Tanto ci sentiamo. Pensavo una speranza una volta, pensavo alle prime invasioni in Italia, sono state quelle della Spagna, vi ricordate, scusate, chiedo un'attenzione. Adesso, ed è stato abbastanza facile, se voi pensate, tutta questa gente che è arrivata si è integrata, ma perché? Perché a un certo punto lo Stato da cui venivano si è regolamentato, cioè allora i rapporti tra gli Stati, cioè prima abbiamo subito, li abbiamo accolto e questi tra l'altro si sono integrati benissimo, accolti, lavorano, ospedali, cadanti, ma anche ingegneri, eccetera. Ecco, cioè questa paura di questa immigrazione e secondo me lì c'era stata la rivoluzione albanese, un po' come dalla parte della vecchia Europa orientale di Cernobbio, no? Ma una volta che vengono regolarizzati e si creano dei rapporti di Stato, cioè il cittadino riesce poi, dopo entra la seconda fase che è in ogni locale, in una situazione locale, poi queste cose si affrontano e si risolvono. Io credo che il problema drammatico di oggi è che non abbiamo la possibilità, questi che arrivano, no? Perché se noi pensiamo ai cinesi, ecco, l'altra cosa che mi viene in mente, i cinesi ci hanno invasi in un silenzio di soldi, cioè è questo, i cinesi non ci danno fastidio, ma danno fastidio al mondo del lavoro, ma la gente normale si può spendere meno, eccetera. Cioè, quelli si sono integrati benissimo nel paese. Allora, io dico, tutta questa non ci possiamo comunicare, non possiamo integrarci, è proprio dovuta al fatto che c'è una drammaticità globale e nel Mediterraneo che dobbiamo essere consapevoli che non durerà, perché per forza di cose si dovranno creare degli stati con cui parlare. Quando noi diciamo li rimanda a casa sua, ma se non riusciamo a sapere da dove vengono, non riusciamo ad andare a casa loro, cioè questa, infatti non ha senso, ecco, volevo dire, questo spavento, questa paura, che sicuramente in un momento drammatico economico del paese ci ha preso, ma è risolvibile. Non è che il mondo muore perché la gente migra, si sposta, eccetera. Il problema è appunto parlarsi e creare, e quindi appunto quando ci sono, io penso ai cinesi nessuno dice niente, non è che non c'è la vita. Io vado anche nella Riviera Adriatica e un bar, i soldi dei cinesi sono quelli che contano. Diciamo che non pagano i soldi, come possiamo. Allora, io dico che dobbiamo aiutarci, nel momento attuale ciascuno nella riunione, nella casa, nel vicino ha il problema di questa convivenza, di questa. Però insomma, ragioniamo a livello politico, perché se no a livello politico è che noi dobbiamo avere, poter parlare con gli stati che ci mandano questi qui, che ci hanno parlato pochissimo. Comunque non spaventiamoci, e è questo che io dico, ecco, non... Raccogliamo. Sì, raccogliamo. Volevo solo dire che quello che Francesca ha detto è molto vero. Voi sapete che io ho passato 2 anni spesso in Eritrea, quindi li vedevo dalla partenza. Tra l'altro, praticavo la scuola italiana e quindi loro sperimentavano. E l'idea che avevano, che hanno, è sostanzialmente che loro vedono i turisti che passano, e quindi che qui, una volta arrivati in Europa, comunque si sta bene, e che insomma le traversie del viaggio sono tutto sommato un problema secondario, perché questo permette di arrivare a una realtà dove comunque ti risolvi questi problemi, e non c'è nessun rapporto con la realtà locale. La stessa ambasciata non fa assolutamente niente, sono quello di organizzare delle camminate, dei viaggi domenicani per la comunità internazionale, quindi non si occupa assolutamente nemmeno di dare un... Questo coincide molto, mi sembra che l'osservazione che ha fatto sugli albanesi, se no, ma non voglio fare per il tempo. L'aveva chiesto, scusate, ho perso... Lui e la signora. Sì. Si sente, ma si usa il microfono meglio. Il professore ha detto nelle ultime frasi, che ha detto una cosa, serve partecipare, è indispensabile per arrivare a una progettualità condivisa, no? Io dico questo, sì, io sono d'accordo personalmente per quello che può valere, però l'ostacolo è quello, secondo me. Allora, dal punto di vista del cittadino, la disponibilità culturale a farlo, anche il sapere, manca anche l'informazione. Cioè, quali sono i punti necessari? Cioè, noi qui oggi ne parliamo, la scuola ha anche questo scopo di far crescere questa cultura dei diritti, di dire, studiare le soluzioni, eccetera. Però non è mica facile. Cioè, ecco. Poi però c'è dall'altra parte, dalla parte delle istituzioni, che sono quelle che dovrebbero favorire la partecipazione, c'è un ostacolo di tutti i tipi, che dipendono sì dalla politica, ma dipendono molto anche dalla burocrazia. Cioè, l'ostacolo più grosso che c'è, questo tipo di l'autoreferenzialità della burocrazia, cioè è un ostacolo terribile. Allora io dico, se vogliamo fare il primo passo, ci deve essere nella nostra testa proprio chiaro come affrontare queste cose, se no rischiamo di parlare per niente. Cioè c'è questa impotenza alla fine di dire ok, sì, io sono d'accordo, ma cosa facciamo? Che cosa fare? Allora, da una parte, ripeto, c'è l'insufficienza culturale del cittadino, e su questo si può tanto lavorare, fare, e non è facile, perché deve essere poi anche una consapevolezza estesa, non può essere di pochi, di un'elite, o perlomeno parte dall'elite, ma poi alla fine. Ma dall'altra parte c'è un ostacolo enorme, la politica. Insomma, ragazzi, siamo sempre sotto lezioni noi qua. Allora, questo è un ostacolo enorme, perché non hai mai dei riferimenti. Non hai mai dei riferimenti con cui parlare, con cui fare un discorso costruttivo, con dei tempi, un progetto a lungo termine. Si parla solo in emergenza. L'emergenza impera. Bene. Purtroppo abbiamo dei tempi strettissimi, io vi chiederei di fare domande. Prego. Ci sentiamo che si sente. Io non volevo parlare di affermazioni. Affermazioni vanno bene, domande e affermazioni, stessa cosa. È scritto: ama il tuo prossimo come te stesso. E Dostoevskij nei Demoni si scagliava contro quelli che amano l'umanità per non amare il proprio vicino. L'interrogativo etico fondamentale che pone questo comandamento però è: chi è il mio prossimo? Io credo che l'individualismo venga dal fatto che per noi oggi, e sta avvenendo sempre più su un'umanità così, il prossimo è un concetto del tutto astratto. Concretamente, mia figlia, con i suoi gruppi di discussione da otaku su internet, ha molte più relazioni e relazioni molto più intense con ragazzi che vivono magari a Singapore o negli Stati Uniti che con i suoi compagni di scuola. Ha più affinità, più interessi in comune. Ma in queste condizioni il prossimo, nel senso del vicino, di quello che fa parte della tua comunità, diventa una cosa completamente diversa. E il riferimento non è più la città in cui vivi. In questo mondo che si è fatto virtuale, astratto, l'antidoto è veramente la partecipazione, ma perché è l'antidoto che ti fa avere relazioni col tuo vero prossimo. E il fenomeno dell'immigrazione, soprattutto dei rifugiati, in questo contesto è un vero banco di prova. Io fino a pochi mesi fa lavoravo per i comuni, per un'unione dei comuni, e so che i comuni hanno grandi vantaggi nell'accogliere i profughi. Il modello proposto dall'Europa e dal governo si chiama SPRAR, è un modello che favorisce l'inserimento di piccoli nuclei di rifugiati che devono essere piccoli proprio per potersi integrare nel territorio. E ho visto anche però che i sindaci non hanno il coraggio politico di accogliere questi nuclei, benché questo gli dia grandissimi vantaggi anche economici, cioè con i soldi che ricevono per creare un nucleo SPRAR, i comuni possono pagarsi asili nido, trasporti, ma manca il coraggio politico di farlo, proprio perché manca la capacità di creare la partecipazione e di preparare il terreno per questi inserimenti. Per cui i sindaci dicono: preferisco che la prefettura mi metta 100 profughi, ma poter dire è colpa loro, è il governo che me lo impone, perché manca la capacità di fare questo lavoro. Finisco con la città metropolitana di Bologna, che in questo sta avendo una funzione molto positiva, perché ha creato un progetto di inserimento distribuito sul territorio, in cui però fa valere il suo peso metropolitano, bypassando la mancanza di coraggio dei sindaci. C'era qualcun altro che voleva chiedere? Sentiamo. Faccio telegrafico, che ho preso già tutto il tempo, sennò mi spiace per lo so. Ma in riferimento all'Albania come esempio positivo di buona integrazione, l'ha fatto lei, lo condivido, però ecco, sono anche d'accordo sul fatto che se noi avessimo la possibilità di interagire con, non dico una controparte, un'interfaccia legittimata, sarebbe tutto più semplice, l'esempio fatto. Infatti io sono sempre più convinto a questo riguardo che il grosso impegno nostro dell'Europa, ma non solo dell'Europa, deve essere sull'Africa. Cioè noi giustamente di fatto dobbiamo occuparci di chi arriva, Però teniamo sempre presente che questo non è altro che la emigrazione, quindi l'immigrazione, è solo l'effetto di una causa. Allora, se noi non lavoriamo sulla causa, è chiaro l'emergenza, tutto quello che vede, che la immigrazione, se noi non lavoriamo sulla causa, l'immigrazione è l'effetto, se noi non lavoriamo sulla causa non lo risolveremo mai. Tenendo presente che comunque noi dovremo convivere con i flussi migratori per tantissimo, perché per una serie di ragioni che credo tutti conosciamo, non fosse altro per boom demografico che l'Africa avrà. Se voi pensate, lo stavo in darti l'altro giorno, sto scrivendo il rapporto sull'immigrazione di quest'anno, che siamo passati da poco più di 300.000 abitanti dell'Africa a 1,2 miliardi, arriveremo a 3,5 miliardi, voi capite che questi... Allora, però il grosso lavoro, sono d'accordo, è se riusciamo, ma non solo l'Italia, perché chiaramente l'Europa, io dico non basta l'Europa, occorre il mondo intero, l'ONU, ma occorre, guardate, anche altri, la Russia, la Cina, che stanno facendo degli investimenti, guardavo gli investimenti che la Cina, poi tu sei in Africa, sei stato, sei, conosci meglio di me, quindi capisco quello che hai detto, però attenzione, ecco, quindi deve essere veramente, io confesso, adesso, è un tema che mi appassiona molto, non voglio rubare del tempo, ma io non credo che si possa fare un piano Marshall per l'Africa, perché il piano Marshall si è fatto, scusate se insisto, storicizzandolo, contestualizzandolo, si è fatto in una realtà, in un'epoca e in una situazione post-bellica nostra che ha consentito quello. Dobbiamo inventare qualcosa di nuovo, però ci vuole un grande piano a livello mondiale per l'Africa, cioè un piano che ci consenta veramente, seriamente di lavorare sulle cause. Vedevo che adesso l'ultimo, ieri, Presidente della Commissione Europea ha tirato fuori questo, speriamo che si concretizzi, che non siano solo parole, però sono d'accordissimo, cioè il problema è lavorare sugli effetti, però dobbiamo avere la consapevolezza di lavorare sulle cause, se no non ne riusciamo, tenendo conto che la mobilità umana è sempre stato un fenomeno elevatissimo, sempre, e lo sarà sempre di più, anche per effetto di quello che diceva la signora, in termini, io parlo di globalizzazione, no? E quando lei dice la mia figlia interagisce di più, si trova in sintonia con chi sta a New York piuttosto che a Sydney, lo capisco, perché si creano queste comunità, usiamo i termini virtuali, che prevalgono, possono prevalere, no? Per via delle nuove tecnologie, eccetera. Che abbiamo un super esperto, che consentono di attivarle, però che non comportano la presenza fisica. Anche qui, io sono sempre dell'idea, scusate, che benissimo, però un radicamento territoriale importante, cioè noi dobbiamo sempre mettere insieme localizzazione e globalizzazione. E quindi il locale, ecco, che suona male, ma dovrebbe essere l'elemento, la modalità, anche qui non opporre l'uno all'altro, dobbiamo trovare modo di far convivere queste due dimensioni, quella se vogliamo più tradizionale con quella più nuova, che non dobbiamo evidentemente sottovalutare perché il mondo ormai è così, però un radicamento, un ancoraggio territoriale occorre. Guardate che chi studia queste cose lo evidenzia molto bene, e cioè che il globale ormai è un fatto acquisito, dobbiamo gestirlo, governarlo, perché sappiamo quanti problemi ci sono, però attenzione di non perdere la rilevanza anche in termini interazionali con il locale. Su quanto diceva prima il signore in merito alle istituzioni che fanno fatica, che è la burocratizzazione che ostacola, non posso che associarmi, però anche lì bisogna muoversi in una prospettiva di mettere in atto dei laboratori per cominciare a smuovere le cose. Io non amo la sociologia del lamento, cioè di quelli che vengono qui, ah, tutto male, perché sennò non usciamo più. Però lo capisco, ecco. E allora cercare magari con piccoli gruppi, con le realtà, di cominciare a smuovere le cose. E sono d'accordo, per esempio, sul fatto che le istituzioni, alcune più sensibili, più aperte, più disponibili, più innovative, altre no. Però la palla al piede è la burocrazia. Anche qui non possiamo individuare solo nella burocrazia il male di tutto, perché questo viene spesso, no? Viene spesso che io individuo un capo espiatorio e allora tutta la colpa è di quello lì piuttosto di un altro. Però è indubbio che la burocrazia è un ostacolo, perché tende per sua natura a autoconservarsi, c'è poco da fare, no? Ti inventa un sacco di blocchi, di paletti, di cose che ti rendono la vita molto difficile. Per sopravvivere molti, in buona parte. Quindi l'unica è tentare dal micro a muoversi, creare delle realtà che consentano un po' di mobilitare le persone, fare delle cose, ecco, sono d'accordissimo, basta parlarci addosso, fare delle cose che possano cominciare a incidere per modificare la situazione e consentire questo riemergere della dimensione comunitaria, tenendo conto che è difficilissimo nella realtà d'oggi. Cioè io sono il primo a auspicarla, ma nello stesso tempo a riconoscere che sia difficile. Però dobbiamo farlo, perché sennò veramente l'iperindividualismo ci porta, altro che a distruggere la coesione sociale, ma di distruggere quella che è la relazionalità tra le persone, che in termini di globalizzazione, di localizzazione, comunque è fondamentale per la vita dei singoli e di tutti. Io mi scuso, ma devo andare via. Grazie a voi e buon lavoro. Noi ci ringraziamo, speriamo anche di avere il cuore ospite della nostra scuola, che continuerà con nuovi progetti. Il tema che hai trattato cercheremo di dedicare anche maggior tempo. Avremo una lezione anche dalla professoressa Memmo sul problema proprio dei diritti dal punto di vista giuridico degli immigrati, quindi continueremo e io ne ringraziamo, spero il prossimo anno di avete ancora con noi. Saluti a tutti, buon lavoro e complimenti per però qui mi devo scusare un po' con il professor Giorgio Lusetti, che purtroppo per calendario le due lezioni meritavano, forse i due interventi meritavano due lezioni intere, quindi siamo andati un po' avanti con gli orari. Però la questione dell'intervento che abbiamo chiesto a Lusetti non poteva mancare nei programmi della nostra scuola, perché abbiamo detto fin dall'inizio che tra i diritti principali più sentiti dalla popolazione che della nostra città metropolitana, certamente quello del lavoro, anche alimentato dalla crisi e con particolare riferimento ai giovani, tra un po' l'abbiamo già ripreso con Colossi che ha fatto un'indagine e una ricerca, è uno dei temi che assolutamente non può mancare. Quindi vi annuncio anche sul tema della casa, che qui è stato sollevato, sarà uno dei temi delle due ricerche che si stanno facendo anche con la scuola, una riguarda l'accesso alla sanità, l'altra riguarda il problema della casa e anche il problema dell'occupazione, dopo il caso la PAE, eccetera. Sta venendo fuori una ricerca di grandissimo interesse che prende in esame anche promossa dalla scuola, tutte le occupazioni che sono state colori, i possibili sviluppi e l'atteggiamento delle varie forze e dei gruppi organizzati rispetto a questo fatto. Io ho già visto una prima parte di questa ricerca che è stata curata dall'università in collaborazione con noi, che presenteremo alla tavola rotonda del 23, che sarà da questo punto di vista molto interessante e interagisce anche col problema immigrati, diritto dell'accesso alle case pubbliche, eccetera. Quindi si allarga molto lo spettro. Torniamo al lavoro, cos'è? Noi ci un po' ci scusiamo se siamo arrivati a questo, però ti ascoltiamo e penso che abbiamo, visto che lui è stato qui con noi, dobbiamo ascoltarlo con grande attenzione, perché questo è uno dei temi che non abbiamo effettivamente ancora affrontato. Grazie. Abbiamo fino alle 6:30, giusto? Come? Le 18:30, giusto? Era il tempo. Perché come dice mio figlio, la scuola è bella quando passa, quando inizia e quando finisce. E poi scuole domani sono lì. Diamo il tempo necessario. Siamo in ansia stasera, perché domani ricomincia, allora a casa a finire gli ultimi compiti. Allora, ma non volevo parlare di mio figlio, perché è ancora lontano col lavoro, per fortuna c'è ancora un attimo di aggiustamento. Allora, io provo a darvi una sorta di linea di riflessione che sto seguendo, socializzo con voi una linea di riflessione che sto seguendo in questi anni, poi spero di essere utile al percorso che voi state facendo. Intanto però prima ringrazio il professor Moruzzi che mi ha invitato, insomma, perché per chi fa il mio lavoro è sempre importante trovare un momento in cui si possa discutere quello che fai, uscire dal serraglio dell'università è sempre fondamentale, insomma, e parlare in altri luoghi che non siano sempre i soliti nostri luoghi, insomma, e confrontarsi con altri contesti, chi sta facendo delle riflessioni che magari sono fuori da quelle che noi facciamo direttamente all'interno dell'università. Poi ringrazio la dottoressa Carlone che ha assistito, mi ha contattato, veramente poi ha fatto le fotocopie, mi sono sentito molto custodito, per cui non è una sorta di maniera così, veramente mi sono sentito accolto in termini anch'io, ma a me non piace il concetto di integrazione, mi piace quello di inclusione, ma inclusione come capacità della società di essere in condizioni di dare spazio a tutti, per poter essere liberi, come diceva qualcuno. Allora, l'inclusione mi piace molto di più dell'integrazione, ma è andato via Cesaro, cioè sono 7-8 domande, gliele farò per poi l'incontro, in sostanza gliele farò. Allora, vengo al dunque, allora, faccio così, quattro velocissime premesse, 1, 2, 3, 4, proprio messe in fila come punti che mi servono per velocizzare tutto quello che volevo dirvi. Prima premessa, allora, diritto al lavoro, il titolo che avevamo un po' accordato, io, e qui ho finito la prima premessa, la metto giù da sociologo. Perché questo faccio nella vita, faccio sociologo del lavoro, peraltro anche a me fa un certo effetto ragionare dentro un contesto che evoca il professor Aldigò, che è stato il mio docente, mi sono laureato qui, in sostanza a pochi passi da qui, poi vabbè, per una serie di vicissitudini ho fatto anni di lavoro in giro, peraltro in sanità, insomma, bolognese qui attorno, e poi dopo sono finito all'università di Verona, dove peraltro mi trovo veramente molto bene adesso e penso di rimanere lì fino all'età pensionabile. Diritto al lavoro, allora, sarebbe bello fare questa discussione, le cose che io vi sto dicendo, intrecciate con almeno uno psicologo, un economista, un giurista, un antropologo. E in questi anni sto cercando di provare a fare questo, a fare veramente quello che dicevano i sociologi del lavoro dalle origini, essere interdisciplinare. Perché? Perché il diritto al lavoro veramente apre un contesto che è spettacolare, cioè è quello proprio normativo, apre tanti versanti. Io mi muovo sul versante sociologico e tendenzialmente mi muovo, questa è la seconda velocissima premessa, dentro un contesto nel quale molti stanno parlando ancora di nuovo di fine del lavoro. Ci ha provato Rifkin un ton di anni fa ed è fallita la storia di Rifkin, perché non è finito il lavoro dopo che Rifkin aveva pubblicato quel libro sulla fine del lavoro, stanno circolando ancora una serie di volumi, libri, ricerche di qualcuno che cerca di spiegarci come tecnologicamente andremo alla fine del lavoro. A parte che il determinismo tecnologico è stato smentito da molti sociologi, cioè la serie, non è che la tecnologia ti determina un fenomeno, poi dopo ci sono dei fattori sociali che te lo ridiscutono, e per cui chissà quel che succederà con questa nuova ondata tecnologica del lavoro. E io sono più interessato a questo. Capire, io, i sociologi del lavoro, sono più interessati a questo, piuttosto che a cimentarci in una inutile discussione sulla fine del lavoro, a capire come sta cambiando il lavoro. Perché il diritto al lavoro penso che ci porti esattamente dentro a capire come sta cambiando il lavoro, piuttosto che se finisce o non finisce. Non mi appassiona quel dibattito. Come non appassiona molto il dibattito, e andrebbe smentito velocemente, sul quantitativo e non sul qualitativo. Noi siamo pieni di statistiche. tutti i giorni, adesso l'avevo fatto, non c'è tempo, c'ho il censimento, io ho una cartellina piena sempre di articoli di giornale, continuamente ci bersagliano su quanti posti di lavoro più o meno è andata su, giù, poi dopo ci scanniamo sullo zero virgola, perché bastano zero virgola in questo paese per aprire un dibattito che non finisce più, perché lo 0,1 è un fenomeno spettacolare, lo 0,1 è un disastro. Allora, usciamo da sta roba qui. Anche l'Unione Europea insiste sulla quantità di posti di lavoro, ma per fortuna l'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, continua a spiegarci che non basta parlare di quantità. Dobbiamo cominciare di nuovo fortemente a interrogarci sulla qualità del lavoro che creiamo. Non serve creare posti di lavoro, serve creare posti di lavoro di qualità. Un posto di lavoro che non sia di qualità, per un sociologo del lavoro è quasi una disgrazia. Lo fai, ti dà un reddito, ma poi prima o poi, direbbe un sociologo del lavoro, ti chiedi che senso ha quello che sto facendo. Ma di fronte alla grande domanda di senso, per conto mio sta la grande riflessione sul diritto al lavoro. Io mi ero permesso di mettere nella prima diapositiva che avevo preparato diritto al lavoro fra parentesi di qualità. Non è diritto al lavoro, è il diritto al lavoro di qualità. Non dobbiamo rassegnarci ad avere posti di lavoro. Dobbiamo aprire il contenitore per capire cosa vuol dire posti di lavoro di qualità. E qui, per velocizzare, perché mi sono già mangiato 6 minuti, vi dico che a chilometro zero, quel che sta per dire Gosetti, a chilometro zero, perché senza fare grandi sforzi, trovate una quantità di cose su questo che è il terzo rapporto dell'ISFOR. Stanno mettendo fuori i dati della quarta ricerca ISFOR. Basta andare sul sito dell'ISFOR, nel frattempo è diventato INAP, ma se voi dentro qualsiasi motore di ricerca digitate ISFOR, qualità del lavoro, vi riporta qui lo scaricate in PDF gratis, e sta per uscire la quarta indagine ISFOL, questa è la terza, sulla quarta ho collaborato anch'io sulla cosa che poi vi dico, ISFOL. Comunque, sempre grazie al lavoro della dottoressa, io ho mandato le diapositive, vi verranno girate in PDF, in fondo c'è tutta una bibliografia con tutte le fonti che io sto citando, ISFOL, ISFOL. Comunque lo trovate citato in fondo, c'è una scheda dell'ultima che ho messo in cui c'è scritto esattamente tutte le fonti che io sto utilizzando. Altra fonte su cui potete accedere a chilometro zero per dare contenuto ai numeri di quel che vi sto dicendo è la Fondazione Europea, Eurofound, anche questo lo trovate citato su quell'ultima diapositiva che io ho dato. Entrate su questo sito, questo ad esempio è l'ultimissimo, è ancora caldo, è la sesta indagine uscita adesso nel 2017. Per cui fra ISFOL e Fondazione Europea, poi permettetemi un po' di pubblicità, insomma abbiamo anche la rivista Nostra Sociologia del Lavoro, tanto per lì, è un prodotto nazionale ma internazionale, per cui questa qui invece magari questa va a pagamento, bisogna anche viverci, non noi, dobbiamo farla sopravvivere, perché chi è dentro il mondo delle riviste sa quanto sia difficile in questi anni mantenere una pubblicazione, è una roba impressionante. Però terza fonte che, se volete, riempie quello che sto dicendo. Allora, vengo al dunque. Non vi ho fatto fare tutte le fotocopie di tutto perché era inutile sprecare la carta, anche per la sostenibilità ambientale, anche per quella lavorativa. Però una cosa che ho provato a farvi stampare è questa scheda qui, che è il punto da cui io partirei. Allora, tutto il discorso sulla qualità del lavoro, per cui l'aspetto qualitativo, non quantitativo del lavoro, fa i conti con 3 grandi cambiamenti che sono in atto nel mondo del lavoro. Primo è un cambiamento organizzativo. Allora, un cambiamento organizzativo vuol dire che noi facciamo i conti con una forte, ve l'ho fatto per parole chiave, poi adesso non c'è il tempo per spiegarci, ma vado velocemente, insomma, modularizzazione dei processi, cosa vuol dire? Vuol dire che non facciamo più i conti con organizzazioni chiuse, dentro se stesse, forse avete anche questo disegno qui, non ce li abbiamo più quelle piramidi per certi versi anche confortevoli, Taylor Fordiste, che sei dentro, fai le stesse robe per tutta la vita, un po' weberiane, razionali, eccetera, laghe più, cioè non ci sono più, non ci sono più, poi qui c'è qualcuno che, come dire, qualcuno, c'è il professor Rosi che ha studiato per anni le tecnologie, mi ricordo altre volte che abbiamo parlato di reti e quant'altro, siamo nel disegnino sotto, cioè siamo fondamentalmente in un mondo organizzativo del lavoro in cui non sta più dentro nulla, è tutto disperso alla ricerca di una modularizzazione del lavoro molto flessibile. Porti dentro nella rete quel che ti serve, quel che non ti serve lo butti fuori, lo tieni dentro fino a quando ti serve, quando non ti serve più lo butti fuori. E tu continui a ridisegnare i modelli organizzativi. Ed è esattamente quel che diceva Cesare prima, quando diceva che non è né globale né locale, non ci eravamo messi d'accordo, c'è scritto globalizzazione e localizzazione in questa scheda, vuol dire che, come dice Saskia Sassel, grande sociologa contemporanea, è tutta una multiscalarità. Ormai trovi il globale dentro il locale, trovi il locale dentro il globale. Se io vi dico Ducati, cosa vuol dire Ducati? Non c'è niente di più bolognese della Ducati. Io poi sono immigrato su Bologna, per cui adesso cerco di fare anche qualche gaffa magari. Beh, per me, o penso alla Ferrari, ma cosa c'è di più globale della Ducati? Adesso la Ducati sta cambiando di nuovo, forse si chiama proprietà, giusto? Sembra che sia ancora lì in bilico di uscire dal giro Volkswagen per entrare in un altro giro. Questa è la globalizzazione. Un locale che è dentro un globale. Un globale che è dentro un locale. Un globale che ha bisogno del locale. Perché poi la gente sta lì, abita lì, vive lì. Sta in quel territorio, fa i conti con quei flussi migratori in quel luogo, in quel territorio, ma è dentro una globalizzazione. Sei ormai dentro una totale globalizzazione che non è dei prodotti, non è tanto che compriamo questo e me lo fanno in Cina, è il fatto che abbiamo globalizzato la struttura produttiva e questo ridisegna fortemente il mercato del lavoro, crea mercati del lavoro diversi. Secondo, l'altro grande asse di cambiamento è proprio quello del lavoro. Cosa vuol dire che cambia il lavoro? Cambia perché è molto maggiore l'immaterialità del lavoro, è innegabile. Basta vedere, cioè, chi di noi ha fatto esperienze di cambiamenti del lavoro in questi anni, ha vissuto sulle proprie pelle in sostanza l'immaterialità del lavoro. Noi non facciamo più convocazioni, non facciamo. Fra qualche anno questa rivista sta per scomparire dal punto di vista cartaceo, ma è tutto evidente, stiamo andando verso l'immaterialità, non c'è più bisogno di stampare, non c'è più bisogno di stampare nulla su un oggetto come quello lì, sostanzialmente facciamo tutto, dirigiamo un'impresa dall'altra parte del mondo, cioè la famosa industria 4.0, mi fermo, vuol dire ma veramente che tu puoi con quello strumento lì fare qualsiasi cosa in qualsiasi punto del mondo, in maniera immateriale. Vuol dire che però tutto questo cambiamento organizzativo si sta portando dietro una forte richiesta ai lavoratori di disponibilità. Una cosa che è aumentata fortemente in questi anni è la richiesta dei lavoratori di saper agire. Una volta ci stressavano i pedagogisti dicendo che sui luoghi di lavoro bisogna saper fare, saper essere. E giù corsi di formazione, questa roba che faceva anche un po' di gastro, perché te la raccontavano sempre, saper fare, saper essere. C'è, innegabile che una laurea serve ancora, è innegabile che serve ancora avere un titolo di studio, una forte professionalizzazione. È innegabile che bisogna saper essere, capire quali sono i valori della tua organizzazione, eccetera. Ma è sempre più richiesto saper agire. Notare che Taichi Ono lo diceva negli anni 50. Taichi Ono era l'ingegnere della Toyota, quello che ha scritto un librino spettacolare, Lo spirito Toyota, che è un libro di filosofia applicata all'organizzazione. Taylor sta alla Ford come Taichi Ono sta alla Toyota. Negli anni 50 e 60 ha cominciato a dire attenzione, cambia il mondo. E il mondo cambia, diventa flessibile, diventa rete, diventa globalizzato, diventa just in time, diventa veloce, istantaneo, polifunzionale. Come facciamo a reggere questa flessibilità? In parte con le tecnologie. Ma a un certo punto anche la tecnologia ha qualche limite. E c'è una tecnologia tendenzialmente più flessibile, che è quella umana. La tecnologia umana in alcuni luoghi di lavoro è ancora quella che sopperisce sapendo agire. Per cui chiedono a me di trovare i problemi organizzativi, risolvere problemi organizzativi, chiedono a me il cuci e rammenda dei processi organizzativi dispersi, lo chiedono a me che lavoro nella grande impresa di fare un certo tipo di lavoro che una volta era standardizzato, era fortemente proceduralizzato. A un certo punto la flessibilità non la fai con le procedure, la fai con quello che i manager chiamano risorse umane. I sociologi nel lavoro c'è sempre un pelino lì, per me chiamarle risorse umane c'è sempre un pelino di dermatite, cioè mi piace ancora chiamarle persone al lavoro, ma poi dopo che finiamo nell'ideologico mi fermo lì in sostanza. Ok, terzo grande cambiamento, scusate, sul secondo grande cambiamento, oltre all'immaterialità, l'attivazione, c'è le transizioni lavorative. Facciamo sempre più conti ormai con l'idea che dentro al lavoro non sei più in un posto fisso. Cioè, dire, ormai tutto sommato l'abbiamo capito, insomma, che tutto quel che stiamo creando come lavoro è un lavoro transitante. Ed è sempre più frequente trovare persone che hanno una carriera orizzontale e non verticale. Cambiare da lavoro a lavoro, senza crescita dal punto di vista economico, talvolta anche senza crescita dal punto di vista delle competenze. Fai lo stesso lavoro, dello stesso contenuto, tendenzialmente basso, e continui a transitare per così, non transiti per così. Le dura dopo 2 anni, 3 anni, 4 anni. Che transiti per così. Cosa accumuli che ti fa andare per così? Poco. E in un paese come l'Italia, a bassa mobilità, le ancora peggio, ma dopo ci arrivo con gli ultimi 5-10 minuti. Adesso l'arbitro, mi ferma l'arbitro se vado fuori dai tempi. Terza grande asse di cambiamento è quello del lavoro e la vita. Cosa vuol dire lavoro e la vita? Vuol dire che è sempre più diluito lo spazio del tempo della vita e lo spazio del tempo del lavoro. Una volta il confine era molto più certo, anzi, era anche tendenzialmente progettato fordisticamente, cioè Ford diceva, attenzione, li faccio lavorare fino al venerdì, magari non li pago neanche male, perché l'aveva detto Taylor, vanno anche pagati bene, perché le persone vanno a soldi, secondo quell'idea che avevano. Ma tendenzialmente se li pago bene e li lascio a casa sabato e la domenica, fanno 2 cose, uno si riposano e il lunedì partono in quarta, 2 magari comprano anche le macchine, vanno in giro con le mie macchine. Allora il fordismo ha inventato un circolo virtuoso che è saltato a un certo punto. Adesso è molto più sovrapposto il confine fra lo spazio e il tempo di lavoro. Quante persone, cioè adesso ho fatto un po' di ricerche su questo, poi mi fermo, non vado proprio in profondità, ma quante persone io ho trovato nel compilare questionari, nel fare interviste, che mi raccontano cosa fanno il sabato e la domenica. Quante volte scaricano la posta il sabato e la domenica. Me la cavo con una frase, tanto perché talvolta noi diciamo che ci sono delle frasi che rappresentano un mondo, come diceva Ferrarotti. Tu prendi la frase di un operaio e hai ricostruito la storia della Fiat. La trovo delle persone che mi dicono, sì, ero in ferie, ho scaricato la posta, ma oh, l'ho fatto semplicemente perché così, quando arrivo a lavorare lunedì, so esattamente quel che mi aspetta. Guardate che è una frase spettacolare. Vuol dire che questa persona ha interiorizzato il dispositivo, come dicono i filosofi colti, cioè vuol dire ha fatto talmente suo il modello organizzativo da dire io il venerdì, il giovedì, sono a Creta che finisco di fare gli ultimi bagni, vado a vedermi gli ultimi reperti archeologici, ma intanto do un'occhiata alla posta. Perché? Perché lunedì quando rientro ho capito quel che mi aspetta. Ma sta ben lì, stai lì con la testa. Stai lì a giocare a calcio con tuo figlio, com'è? E no, guardi la posta. Ovviamente che tu guardi la posta per tranquillizzarti, sei fritto. Vuol dire che sei dentro questa diluizione. E questa diluizione, attenzione, una volta era tipica del libero professionista che lavora il sabato e la domenica. Perché? Perché il lunedì devo vedermela con l'assessore e il lunedì devo essere pronto con l'assessore. Allora il sabato e la domenica do l'ultimo colpo al progetto perché il lunedì... No, adesso queste robe qui stanno succedendo a dei livelli di, mettiamola così, inquadramento, competenze, attività che non sono quelle del libero professionista, sono quelle del lavoratore dipendente che ha un atteggiamento da libero professionista, ha spalmato il lavoro dentro la propria vita. Sempre più disuguaglianze, attenzione, come diceva Bauman, la società è liquida, ma ci sono alcune cose che sono ancora fortemente solide. Non è mica così per tutti. Non è mica così per tutti, poi se volete su questo andiamo giù e vi tengo, ci stiamo qui la notte, io sono disponibile, domani mattina c'è una roba da fare, ma stanotte posso. Welfare e protezione sociale, questo apre un contenitore sul rapporto tra il lavoro e la vita, sul quale noi, già c'erano alcuni accenni che faceva Cesare prima, su quale noi finora abbiamo riflettuto con difficoltà, cioè sta cambiando, deve cambiare il modello di welfare, deve cambiare il modello di protezione sociale. Lo diceva Castel con un bellissimo libro sull'insicurezza sociale nel 2003-2004, io mi ricordo che lo chiamai a Verona, spettacolare, lo diceva già, ma lo diceva già da prima, sui libri che scriveva, sta cambiando fortemente il mondo, dobbiamo far cambiare la protezione sociale, il modo in cui noi tuteliamo le persone, altrimenti sono da sole. E attenzione, quel che ha le risorse ce la fa, quel che non ha le risorse non ce la fa. Tipo la famiglia, un conto è fare il flessibile a Bologna e a Trento, un conto è farli flessibile in qualche altro posto anche di questo paese. Vado velocemente, solo per dirvi che tutto quello che vi avrei voluto raccontare più nel dettaglio, adesso ve lo sintetizzo, sta tutto in questo foglio qui. Se ve lo socializzate, chi ce l'ha in sostanza, adesso salto un po' di cose, non so se c'è, perché può darsi che abbia... No, scusate, ancora meglio, dovreste avere... Prendete sia quello lì che questo. È indifferente. Allora, qual è la tesi che io cerco di sostenere? È che per capire come è fatto un lavoro di qualità dentro questo cambiamento, e attenzione, non l'ho mica inventata io, c'è Ciano Gallino, Michele La Rosa, cioè vi faccio un elenco di sociologi al lavoro arrivati prima di me, che l'hanno poi scoperta un po' più loro, dopo io sto riaggiustando il modello con le ricerche che sto facendo, insomma adesso mettiamo anche tutta l'umiltà che ci vuole nel spiegare le robe, però se vogliamo capire come è fatto un lavoro di qualità in questo scenario che sta cambiando, per quanto che bisogna lavorare su queste nove dimensioni. Vale a dire, provo ad andare per flash. Sicuramente un lavoro di qualità deve essere un lavoro che ha dei buoni indicatori dal punto di vista economico. Cosa vuol dire buoni indicatori dal punto di vista economico? Vuol dire che sia un lavoro che tendenzialmente ha una retribuzione dignitosa. Noi cominciamo ad avere degli indicatori veramente preoccupanti in questo paese di lavoratori poveri. Attenzione, non di poveri. Perché che il disoccupato sia povero è intuitivo, ma che il lavoratore sia povero, come dicono i sociologi colti, è controintuitivo. Se c'era una roba, io non rimpiango Ford, per l'amor di Dio, nelle catene di montaggio, niente, ma se c'era una cosa che Ford aveva ben chiaro, era che il lavoratore va pagato. Perché te lo fidelizzi, te lo tieni lì, lo sfrutti, lo tieni sulla catena di montaggio. Faccio sempre vedere agli studenti un bel filmato della prima volta in cui i lavoratori della Ford hanno deciso adesso andiamo fuori, perché non ne potevano più del lavoro in catena di montaggio. Cosa ha fatto Ford? Ha applicato esattamente la ricetta taylorista. Li ha chiamati, gli ha detto scusate, lo fate per 5 euro in più, 5 dollari in più? Sono tornati dentro. C'era bisogno di farlo. Poi gli ha anche fatto capire, attenzione, tu sei bianco, fuori ci sono i neri. Poi andava dei neri, diceva tu sei nero, fuori ci sono i bianchi. C'è un filmato che è spettacolare, le interviste fatte a persone che hanno vissuto quell'epoca lì, totalmente sotto ricatto. Gli dicevano attenzione, fuori ce ne sono degli altri, io ti pago un po' di più, torni dentro, sono tornati dentro. Ma tendenzialmente Ford dava, pur dava una certa garanzia, c'era un reddito. Che era poi il reddito che abbiamo sempre visto passare alla Fiat con lavoro a tempo indeterminato, eccetera, eccetera. Ora cominciamo ad avere veramente dei problemi di concentrazione del reddito, ed è bello il dato che porta Disfol, lo dice, basta usare il cosiddetto indicatore di Gini, che è un indicatore statistico che misura la concentrazione del reddito. L'Italia è uno dei paesi che ha gli indicatori di Gini più alti in Europa, vuol dire reddito non distribuito, concentrato a livello geografico, ma anche all'interno delle stesse regioni con un reddito alto non era distribuito, vedi l'Emilia Romagna, vedi la Lombardia, anche lì trovi degli indicatori che fanno pensare, vuol dire che anche le regioni in cui si sta bene il lavoro non consente di redistribuire il reddito. O sulla dimensione economica, tanto per dirla, prima qualcosa bisognerà inventarsi, perché qui ci sono persone che lavorano e che veramente pur lavorando non sono più nella condizione fordista. Però, come dicevano tanti, l'ha detto Castello, l'ha detto in tanti, bisogna cominciare a ripensare la protezione sociale anche dal punto di vista economico, perché le persone non ce la fanno col lavoro a soddisfare un bisogno fondamentale, come diceva Luciano Gallino, che intanto è quello di sopravviverci col lavoro, per quelli che hanno ancora solo il lavoro come fonte di reddito. Secondo, dimensione ergonomica. Cosa vuol dire la dimensione ergonomica? La dimensione ergonomica vuol dire che un lavoro, per essere qualitativamente buono, deve essere un lavoro fatto in condizioni ergonomiche dignitose. Noi adesso abbiamo tutto sommato l'aria condizionata più o meno dappertutto. Adesso abbiamo visto recentemente, sono stato qualche giorno alla Volkswagen, a Wolfsburg, fabbrica di 58.000 persone, spettacolare. Cioè. È come per un bambino entrare nel, delle macchinine a Legoland. Penso di aver provato la stessa emozione di quando mio figlio è andato a Legoland, cioè entri dentro tutti sti robot, tutte ste robe spettacolari, ma ti sembra di entrare in una roba, cioè è tutto fluidissimo, cioè da un punto di vista ergonomico spettacolare. Allora, è cambiato veramente nel giro di 100 anni, i luoghi di lavoro sono cambiati moltissimo. Attenzione, esiste ancora l'agricoltura, che qualche dato problematico ce l'abbiamo. Esiste ancora l'edilizia, che qualche dato problematico ce l'abbiamo. Dov'è che abbiamo dei dati problematici sulla dimensione ergonomica? Sui ritmi. Sui ritmi di lavoro. Perché sui ritmi di lavoro? Perché non è tanto un problema di ritmi intensi, ma è un problema di ritmi discontinui. Me l'hanno insegnato molto bene i medici del lavoro questo. Io raccoglievo dei dati, poi dato esattamente, ecco, dimenticavo prima oltre ai giuristi, gli antropologi, anche i medici del lavoro. Bisognerebbe mettere attorno a un tavolo per parlare del lavoro. Loro mi ha spiegato molto bene i medici del lavoro che è peggio un ritmo discontinuo che un ritmo elevato. Perché? Perché il ritmo elevato, il Gosetti, lo controlla. Sai chi c'è. Ti ricavi degli spazi, è quello che hanno sempre fatto i lavoratori sulla catena di montaggio. Piccoli trucchi, accelerare una cosa per recuperare qualche secondo, e così, cioè, piccoli trucchi che chi conosce il ritmo del lavoro riesce a mettere in campo per ricavarsi uno spazio di respiro. Ma quando il ritmo è discontinuo, è difficile. Una settimana intensa che lavori di giorno e di notte, poi è tutto da dimostrare che quel di notte te lo paghino come il di giorno, che dovrebbero pagartelo anche di più, e torniamo alla dimensione sopra, spesso c'è una quota elevata di lavoro gratuito, gratuito, si dice anche dentro l'università. Dappertutto. Dappertutto. Volontario è molto nobile, la ringrazio di questo slancio, non è tanto volontario, è un lavoro costretto. È un ricatto, è un ricatto, esattamente. Ti dicono, guarda, sono le 6, ok, ascolta, senti, ancora per un'oretta, dai che chiudiamo, poi dopo magari la recuperi un altro giorno, poi il giorno in cui la recuperi te lo sei bene che hai dimenticato, quell'ora l'hai fatta. Ma qual è il problema? Il problema è che il ritmo può essere intenso, ma quando diventa discontinuo è difficile controllarlo, cognitivamente è difficile prendere veramente le misure, e lì diventa più problematico, è uno dei fattori di stress, lavoro correlati, la discontinuità, ancora più dell'intensità. Se guardo quel che ho scritto magari mi viene anche in mente, problemi di intensificazione, problemi anche se vogliamo di ergonomia cognitiva, vale a dire sempre più i lavori sono lavori che non hanno dei confini. Un'altra cosa di cui noi abbiamo bisogno, oltre ad avere una sorta di ritmo, tu lo controlli, sai quello che ti aspetta domani mattina, e se non lo sai le dura arrivare sul posto di lavoro e dire adesso cosa mi succede. L'altra cosa è avere un territorio definito. Allora, è un fenomeno che adesso bisognerà raccogliere ancora qualche dato, ma noi siamo sempre stati abituati all'alienazione da prodotto, vale a dire la persona non sa fondamentalmente che cosa sta facendo rispetto al prodotto complessivo. Questa l'avevano già studiata con Ford. Sei in un punto della catena di montaggio, non sai come va a finire il lavoro che fai. Però attenzione, la catena di montaggio era dentro un confine. Bastava parlare con gli ultimi, l'uso, e capivi come andava a finire. Adesso il problema è che oltre all'alienazione da prodotto c'è anche quella da processo. Tu fai una cosa che è dentro qualcosa che qui non sai neanche che cos'è. Sei qui che stai facendo una roba, ma l'altra cosa la stanno facendo dall'altra parte del mondo. Allora è proprio un problema di ergonomia cognitiva, di controllo, non soltanto sul tempo ma anche sullo spazio. E dicono qui gli etnologi, forse un'altra categoria da aggiungere, anche gli etnologi, oltre, no, gli etologi, chiedo scusa, quelli che sono gli animali, ho sbagliato, che come gli animali anche noi abbiamo bisogno di un territorio definito. O voi entrate in qualsiasi luogo di lavoro e ditemi se non trovate ancora le scrivanie con sopra la fotografia della nonna, della mamma, e qualcuno ci ha messo anche il Bologna come sottoscritto, mi raggiunge adesso, mi vedrò costretto a tirarla giù se andiamo avanti così, però io ho anche la fotografietta del Bologna a Verona perché voglio vedere anche l'effetto che fa sugli studenti, sì, però ce l'ho, è un mio simbolo di un mio territorio. Sta venendo meno un po' anche questo. Terza dimensione, vado velocemente, so che la sto facendo molto più lunga. Sì, potrei già aver finito. Allora, vado velocemente sulle altre dimensioni, vi faccio soltanto un flash, poi dopo tutto quel che vi sto dicendo un po' lo trovate nelle diapositive, un po' lo trovate sugli altri materiali. Complessità, cosa vuol dire la complessità? Noi abbiamo bisogno di fare cose diverse sul lavoro. Per cui più il lavoro è complesso, più il lavoro è creativo, più impari a fare cose nuove, più impari tendenzialmente a impegnare la testa, impari a trovare le soluzioni, impari dai problemi imprevisti. Allora, qui stiamo assistendo ad una cosa che è molto singolare, vediamo se anche questo dato viene confermato, che è un po' un discorso di polarizzazione. Qualcuno sta parlando di clessidra. I miei colleghi che studiano il mercato del lavoro stanno dicendo che questa clessidra ormai è abbastanza dimostrata. Cosa vuol dire clessidra? Vuol dire che noi ci ritroviamo ad avere dei lavori ad un livello alto di complessità e dei lavori ad un livello basso di complessità, che è più o meno lo stesso di quel che succede con l'economia, con la retribuzione. Lavori di livello alto di complessità, molto qualificati, ben pagati, e lavori a livello basso di complessità, poco pagati e poco complessi. Questa clessidra in Italia però ha una particolarità, va un po' così in tutto il mondo, vanno un po' così negli Stati Uniti, quella poi la teoria che qualcuno dice che sta scomparendo la classe media, in parte sembra vero, però io sono più interessato al cambiamento nella qualità del lavoro, vuol dire che c'è un lavoro di qualità alto e un lavoro di qualità basso, e lo vedi molto nella dimensione della complessità. Scompare un po' la fascia intermedia. Vi dicevo, qual è la particolarità della clessidra italiana? Di essere asimmetrica. Vuol dire che noi creiamo più posti di lavoro a bassa qualificazione, nella pancia sotto, che non ad alta qualificazione nella parte sopra. È come se creandone uno sopra, noi ne creassimo 10 sotto. In quei 10 sotto ci sono finiti finora gli immigrati. Spesso. Cosa che succede un po' meno in Germania. Ma chi finisce sotto, dato che la clessidra, se voi immaginatevela, la clessidra ha un collo stretto, qual è l'effetto? L'effetto è di bloccare la mobilità. Che non esci. Non esci, blocchi la mobilità. Se tu finisci a fare un lavoro a bassa qualificazione, bassamente retribuito, rischi di continuare a girare in orizzontale e non avere la possibilità di saltare perché ti mancano i gradini per andare al livello più alto, a meno che non c'hai le gambe lunghe. Se hai le gambe veramente lunghe, che vuol dire? Sei in un certo mercato del lavoro, hai una famiglia che ti sostiene, ti manda a fare il bel master a Londra, alla London School, ti mantiene per un certo limite di tempo, hai qualche conoscenza, sei a Bologna piuttosto che a Reggio Calabria, se, come dicono i sociologi, tutti i fenomeni sono multifattoriali, non esiste a causa di un fenomeno, se una serie di cause giocano a tuo favore, tu salti dal fondo all'alto. Ma questa clessidra si sta consolidando in Italia, lo vediamo soprattutto sulla complessità. Altra cosa, l'autonomia. Allora, l'autonomia è molto selettiva. Il dato che salta fuori, ad esempio, dalle indagini del DISFOL, e un po' anche da quella della Fondazione Europea, è che ci sono ancora molti lavori con un grosso livello di prescrittività. Cioè, tutta questa flessibilità, dinamismo, l'autonomia è molto selettiva, è molto legata ai livelli medio-alti. Semmai, ai livelli bassi, non c'è l'autonomia, ma c'è una prescrittività che alle persone talvolta dà la sensazione di essere autonomi. Io mi sono trovato soggettivamente a ragionare con delle persone, a trovare dei dati quantitativi e qualitativi, anche nelle interviste, focus group, di persone che mi dicono io sono molto autonomo. Poi tu gli fai ricostruire cosa stanno facendo. Per loro l'autonomia è non avere qualcuno che ingerisce nel tuo lavoro. Tu dalla mattina alla sera sai quel che devi fare, ma che autonomia è? L'autonomia è la possibilità, diciamo, di scegliere operativamente la strada A piuttosto che la B o la C. L'autonomia è di organizzarti i compiti. L'autonomia è di dire oggi non lo faccio domani, ma posso metterlo in sequenza perché domani lo faccio meglio di oggi. L'autonomia è una scelta operativa. Allora, questa scelta operativa tendenzialmente non è così frequente, però c'è molta, permettetemi, ideologia su questo. noi ci stiamo riempiendo la bocca con le persone che devono essere autonome, attive, imprenditori di se stesso. Poi vai sui luoghi di lavoro e vedi che questo imprenditore di se stesso è molto confinato. Sei imprenditore di se stesso, di te stesso, nella risoluzione di problemi operativi di basso profilo. Ma l'autonomia, quando vieni su, è molto vincolata. Controllo, cosa vuol dire controllo? Controllo vuol dire che il lavoratore dovrebbe, per avere un lavoro di qualità, partecipare ai processi decisionali. Cioè essere in condizione di entrare direttamente o indirettamente nei processi decisionali. Ve la lascio lì, non è stagione. Non è stagione. Abbiamo avuto dei momenti di democrazia sui luoghi di lavoro. Ad esempio sto studiando proprio il modello Volkswagen, una delle ragioni per le quali sono andato a Wolfsburg, perché avevo una c'è la Volkswagen in Italia, che è l'unico punto di Volkswagen in Italia che è commerciale. Io come università sono dentro un laboratorio che è fatto da impresa, sindacato e università, e stiamo studiando i meccanismi di partecipazione. L'ipotesi è trasferire su Verona il modello tedesco Ocio. Non si trasferisce nulla al mondo, cioè la serie devi tradurlo in veronese, che vuol dire nelle relazioni sindacali locali, nella tradizione locale, che alla fine non è più il modello tedesco, è un'altra roba. Ma però quell'altra roba è tendenzialmente capire come puoi in quel contesto, 800 lavoratori, neanche pochi, tu puoi creare dei sistemi di partecipazione. Però non è la fase storica, e lo sa benissimo il sindacato, ad esempio. La crisi a portare a sintesi l'eterogeneità sui luoghi di lavoro. Perché è difficile fare partecipazione? Perché abbiamo un livello che sta aumentando di conflittualità orizzontale. Una volta la conflittualità era verticale, ma quella verticale che c'è ancora l'abbiamo imparato a governarla come? Attraverso la contrattazione. È ovvio che fra lavoratore e datore di lavoro ci sono degli interessi diversi. Un sindacato ha fatto questo nella vita, contratti, per cercare di mettere assieme due interessi in contrapposto e trovare un punto di equilibrio temporaneo fino a quando si litiga. Ma se si litiga a livello orizzontale, non può mica farlo nessuno, Allora, litighi fra lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Cos'è successo con la crisi? Che i lavoratori a tempo indeterminato hanno fatto così, o gli altri sono rimasti a casa. Le imprese non è che hanno licenziato, non hanno rinnovato i contratti con i luoghi di lavoro. E i lavoratori a tempo indeterminato mica sempre hanno solidarizzato. Hanno detto... Allora, quei due gruppi sono conflittuali gli italiani con gli stranieri, sono conflittuali le generazioni. Su alcuni luoghi di lavoro sta aumentando il conflitto orizzontale generazionale, perché talvolta è il conflitto segnato da forme diverse di contratto, per cui segnato da oggettivi interessi diversi. Per cui come fai a fare partecipazione al processo decisionale quando hai una composizione sociale della popolazione che è così eterogenea? È difficile. Sesta e ultima dimensione, diciamo, di quella colonna più sulla qualità del lavoro è quella simbolica. Penso che un dato che veramente in questi anni sta diventando problematico è l'identità sul lavoro, l'identità lavorativa. Provo a dirlo anche qui con due o tre frasi che ho raccolto negli anni. C'è persone che non sanno raccontarsi attraverso il lavoro. Io ho avuto dei nonni, come tutti quanti abbiamo avuto dei nonni, che mi hanno raccontato quel che hanno fatto nella vita. Se io chiudo gli occhi e penso ai miei nonni, io riesco a descriverli come lavoratori. Ci sono delle persone che cominciano ad avere difficoltà a descrivere il loro lavoro, a dire che cosa racconto io ai miei amici, che lavoro sto facendo. Proprio dal punto di vista simbolico sta nascendo una forma di malessere da spiazzamento identitario. Vi faccio un altro esempio, una persona che tempo fa, in un corso di formazione in cui io poi ogni tanto vado poco a fare formazione, non faccio consulenza, dipendente pubblico, io faccio il lavoro pubblico, per cui fuori da me ogni ombra di fare consulenza e storie del genere, però se mi chiamano a fare qualche confronto, pubblica amministrazione, quella ci vado. Tempo fa facevo una cosa di questo tipo in un contesto a medio-alta professionalizzazione, c'è una persona veramente che alza la mano e mi dice: adesso ho capito cosa intendi per dimensione simbolica, te lo do io l'esempio. Io ho dei valori che non sono coerenti con i valori della mia organizzazione. Mi chiedono di fare delle cose che non sono coerenti con i miei lavori, con i miei valori. Allora, voi immaginate una persona che ha un orientamento molto ambientale, ecologista, da responsabilità sociale, che si trova a lavorare in un'impresa che produce mine anti-uomini. che produce merendine che poi dopo magari mangerebbe anche mio figlio. Immaginate allora la distanza che si sta creando nella dimensione valoriale. Allora, la dimensione simbolica non è una cosina effimera che dici, talvolta noi nel senso comune diciamo simbolico per dire che è una roba così. No, è una cosa profondamente nostra, è il modo in cui noi ci raccontiamo col lavoro, è il modo in cui noi raccontiamo agli altri quello che stiamo facendo. È il valore che noi diamo al lavoro ed è veramente un elemento di emergenza. Allora, io dicevo che, e qui ho finito, ci sono sei dimensioni che riguardano strettamente il lavoro, ma siccome il lavoro sta diventando sempre più qualcosa che perde a vita lavoro, ed è difficile trovare il confine, per capire come stanno le persone sul lavoro devi continuamente guardare anche la qualità del rapporto fra la vita e il lavoro. Allora, lo guardi ad esempio in termini di conciliazione. È una partita molto difficile. Anche perché, qual è la difficoltà della conciliazione? È che il problema non lo risolvi più in termini conciliativi. Ma ogni tanto mi trovo in discussione sul bilanciamento vita-lavoro, work-life balance, tutte queste teorie. Ma è sempre più difficile mettere il lavoro e la vita su due piatti diversi della bilancia. Dire qui c'è la parte della vita, qui c'è la parte del lavoro. Le cose sono sempre più sovrapposte. Allora, se sono sempre più sovrapposte, l'unico modo per affrontare la conciliazione è cominciare ad occuparsi di organizzazione del lavoro. Veramente, organizzare il lavoro in maniera tale che sia coerente con la qualità della vita delle persone. Non possiamo pensare che organizzazioni, ad esempio come la mia, siano in difficoltà a concedere il telelavoro. Non possiamo pensare che alcune organizzazioni siano in difficoltà a concedere la flessibilità in entrata e uscita. Non possiamo pensare che il part-time, una volta che l'hai preso, sia praticamente come un marchio, che tu sai quel part-time che te lo porti dietro per tutta la vita con quelle ore e guai mai, hai lottato per averlo, guai mai se lo cambi. Ti è già andata bene che ti ha dato il part-time. Poi se sei una donna che ti ha dato il part-time, sei anche dentro un maledetto meccanismo di rinforzo del maschilismo di questo paese. Perché dato che ti ha dato il part-time, sei privilegiata, puoi pensare al figlio, ai lavori domestici e mantieni il modello maschilista di questo paese, della ineguale redistribuzione dei carichi domestici. Io ce l'ho a morte col part-time. In questo senso qui. Poi voglio dire, il part-time, se tu non lo rendi flessibile, vuol dire che quella persona organizza la sua vita su quello, ma è uguale, poi dopo non diventa neanche più part-time. Perché aggiungi mezz'oretta prima, mezz'oretta dopo e ve la risparmio. Allora bisogna veramente qui avere la capacità organizzativa di entrare nei ruoli di lavoro, studiarli, capirli, capire il contenuto del lavoro, capire il contenuto dei processi organizzativi e organizzarli in maniera tale che le persone lì si possa semplificare la vita anche con cose semplici, con un po' di flessibilità non dal punto di vista dell'impresa ma dal punto di vista del lavoratore. Non esistono lavoratori contrari alla flessibilità. Io sono pieno di dati, ho fatto una ricerca sulle imprese agricole, sui servizi di salute mentale, sulle imprese artigiane, ho collezionato dati di tutti. Continuo a trovare lavoratori che vogliono la flessibilità. Non è vero che i lavoratori hanno paura della flessibilità, sono stufi della flessibilità guardata dal punto di vista dell'impresa. Guardiamola dal punto di vista del lavoratore e troviamo un punto di convergenza. Cosa vuol dire protezione sociale e partecipazione sociale? Le ultime due dimensioni, e giuro che adesso in tre minuti, in due minuti l'ho finita. Questo è un segnale, che a quest'ora dovevamo essere fuori. Protezione sociale è quel che dicevo prima, noi dobbiamo cominciare a pensare alla continuità lavorativa. Allora, la protezione sociale non può essere più quella del vecchio sistema di welfare. Qui bisogna veramente cominciare a ragionare in termini di protezione sociale vuol dire di reti che danno la possibilità alla persona di dare continuità ad un progetto lavorativo. Vuol dire reddito? Non solo. Vuol dire formazione? Vuol dire servizi che veramente accompagnino le transizioni da un lavoro all'altro? E cioè, mi fermo, ho un catalogo. Vuol dire veramente pensare a qualcosa che protegga il lavoratore. Non è solo un discorso di ammortizzatori sociali. E anche un discorso di ridisegno della città, di ridisegno dei tempi. È veramente un discorso di aggancio del lavoro al contesto urbano in cui la persona vive. È un problema proprio di alta pianificazione strategica. la protezione sociale. Non è soltanto un problema di dare la maternità a chi ha un contratto, sì, sono convinto, è innegabile che una donna non deve avere la preoccupazione di rimanere incinta e non sapere a chi dirlo. Abbiamo fatto una ricerca con Donata Contardi, una mia collega giurista a Verona, trovando ancora donne preoccupate di non sapere come comunicare al datore di lavoro quando aspettano un figlio. Siamo nel 2017, la ricerca era del 2015, ma non sono cambiate le robe negli ultimi due anni. Il lavoro è ancora questo, donne preoccupate che lo dicono all'amica, lo confidano, lo tengono nascosto fino a che tornano al lavoro demansionate. No, no. Ci deve essere un sistema di protezione sociale che garantisce alle persone di fare del lavoro un'esperienza di vita, garantisca anche alle imprese di poter pianificare, organizzare il lavoro anche all'impresa. Sono perfettamente convinto che il lavoro lo fai se hai anche delle imprese che producono, questo è innegabile, ma lo devi fare dal punto di vista del lavoratore. Ultimo, partecipazione sociale vuol dire che un lavoro dignitoso, un decent work, come dice Loyal, deve essere anche un lavoro che consente alla persona di far parte di un progetto sociale. O a qualcuno non gli importa niente. Io trovo fasce di popolazioni che quando entro in questa dimensione mi dicono che comincio a incontrare però fette di lavoratori che addirittura cambiano lavoro, mollano il lavoro e fanno una piccola impresa biologica per produrre pane. Abbiamo fatto delle ricerche spettacolari fra Veneto e Sardegna con un gruppo di miei colleghi in cui stiamo intercettando forme di lavoro piccole, micro, che rispetto alla globalizzazione non la vedi neanche, ma di persone che dicono: voglio recuperare un senso politico del lavoro, voglio che il mio lavoro serva a qualcosa, serva alla comunità, serva alla società, voglio che il mio lavoro abbia una partecipazione sociale, non voglio farne soltanto un'esperienza mia. Un lavoro di dignità, per conto mio, dovrebbe rispondere a tutte queste nove dimensioni di bisogno, altrimenti me l'ero portata dietro, non si riesce a vederla, ma se volete ve la racconto io, un po' da fortuna, ma mi porto sempre dietro questa diapositiva, che è una roba che fece Antan qualche anno fa, che diceva: lavoro non ce n'è, mi trovi un job allora. Cioè, della serie, non è che adesso possiamo raccontarcela cambiando il nomino, lavoro non ce n'è, classico ufficio, e l'altro gli dice: mi trovi un job allora. Cioè, la serie, siccome non mi trovi un lavoro, almeno trovami un job, come se fosse un'altra, cioè, fermi tutti, non prendiamo in giro. Quote di giovani che in un paese come il nostro, con un elevato livello di disoccupazione da ingresso, che il nostro problema non sono quelli che sono dentro che lavorano, sono quelli che sono fuori che non entrano. Siamo il paese che ha il più alto livello di disoccupazione da ingresso, che vuol dire disoccupazione giovanile. La Grecia. Però possiamo sempre pensare che soltanto la Grecia ci salva dai play-off, dai play-out in sostanza. Cioè, voglio dire, basta questa storia che c'è la Grecia sotto di noi. Guardiamo quel che succede alla Svezia, guardiamo che sugli altri paesi, insomma, in cui veramente non passiamo dal job, dall'attività al job, ma cominciamo a ragionare veramente su percorsi di facilitazione d'ingresso al lavoro. So che sono andato molto in là, ma ho coperto il telefono per non vedere l'ora. Bravo.